24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:20 minuti in questo istante, eccoci qua cari ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati in diretta fino alle 9 con Filippo Aureggi oggi in regia al nostro fianco e con in arrivo dalle 8:20, tra un'ora, dalle 8:20 fino alle 10. Uno speciale dedicato ai ballottaggi, le amministrative. Ci sarà anche Oscar Giannino qui al mio fianco e tanti ospiti ovviamente e anche gli ascoltatori, tutti voi, per commentare quelli che sono i risultati elettorali di ieri. Allora, proprio da qui vogliamo partire, dalla lettura dei risultati elettorali, e lo facciamo leggendo i giornali in edicola. In primo piano, martedì 31 maggio, i titoli di tutti i quotidiani sono dedicati ai ballottaggi di ieri. Vediamo una rapida carrellata per il Sole 24 Ore. Doppio ciclone sulla maggioranza. Berlusconi ok da Bossi, governo avanti. Per il Corriere della Sera, il centrodestra perde da Milano a Napoli. Per Repubblica, la disfatta di Berlusconi. L'apertura della Stampa, ballottaggi, il crollo di Berlusconi. Per il Messaggero, Berlusconi, la disfatta delle città. Poi giornali, diciamo, più orientati politicamente. Libero, una batosta per Silvio, chiagne e non fotte. Il Giornale, il dopo elezioni, grande psicodramma. Per il Fatto Quotidiano, e adesso vattene, questo è il titolo a caratteri cubitali dedicato a Berlusconi. Per l'Unità, grazie Italia, ci sono delle foto, c'è una foto sullo sfondo di persone che festeggiano l'elezione di Pisapia. Mentre per il Manifesto, anche qui una grande foto, tutta pagina di persone che festeggiano a Milano, non ci posso credere, questo è il titolo. Per il Secolo XIX, la valanga, questo è il titolo di apertura. Vabbè, vedremo ovviamente l'ampia pagina dedicata a tutti i commenti, a anche commenti degli editorialisti, a che cosa succederà ora il dopo voto. Intanto voglio partire dalle consuete segnalazioni di altro taglio e ne ho trovate due legate alla scuola. La prima dell'incredibile, la trovo sul Secolo XIX, un'intera pagina. Una nota può costare 34.000 euro. È questo il risarcimento chiesto da una famiglia palermitana alla maestra che sgridò il figlio. Io dico, una vicenda davvero incredibile, ricalca, infatti il Secolo XIX con Franco Nicastro ricorda proprio quella vicenda di qualche mese fa, forse la ricorderete perché ce ne siamo occupati anche noi, di una insegnante che addirittura, per aver fatto scrivere "sono un deficiente" sul quaderno al proprio allievo, che aveva fatto un atto di bullismo, si era presa anche un mese di carcere. Ebbene, questa è una vicenda simile, perché in una scuola elementare in un quartiere residenziale di Palermo una delle tre maestre scrive sul quaderno dell'alunno una nota con la quale informa la famiglia, insomma, come si faceva, come si fa, che il ragazzino era troppo vivace a scuola. Il ragazzino cosa fa? Falsifica la firma della madre. E dunque, oltre a beccarsi la nota, falsifica anche la firma della madre, al che la maestra fa scrivere, o meglio, dice a questo ragazzino: se tu fossi adulto avresti problemi con la giustizia nel fare questo. Non l'avesse mai fatto, è arrivato il padre a scuola, non finirà così, ha detto la maestra, e alla fine ha promesso e ha fatto arrivare una querela con richiesta di risarcimento di 34.000 euro per le sofferenze psichiche del figlio. E non è l'unico caso, il Secolo XIX ricorda che invece un altro risarcimento, questo da 16.000 euro, si è visto chiedere l'insegnante di un liceo che ha colto uno studente impreparato e gli ha chiesto di scrivere sulla lavagna: oggi non ho voluto studiare. Il ragazzo, dice la famiglia che ha presentato una querela, avrebbe subito un trauma così forte, ma così forte, da essere costretto a cambiare scuola, un istituto privato naturalmente. Vabbè, quindi con la richiesta di 16.000 euro in questo caso. Dura vita fare gli insegnanti anche per questa vicenda. Per queste vicende. La seconda notizia che riguarda la scuola l'ho trovata su Libero, a pagina 22. In corteo anziché sui libri, 20.000 a rischio bocciatura. Sta per finire l'anno scolastico e quest'anno, secondo le disposizioni del Ministero, chi supera i tre quarti dei giorni, chi supera un quarto dei giorni di lezione in assenza, rischia la bocciatura. Sono circa 50 giorni, una media di 250-300 ore per istituto. E il che vuol dire? Che secondo la rete degli studenti che appartiene alla sinistra moderata, scrive Libero. Ci sono 20.000 ragazzi delle superiori, quelli maggiormente coinvolti nelle proteste studentesche dell'autunno scorso, che quindi hanno fatto perdere con manifestazioni molti giorni di scuola, che rischiano a questo punto la bocciatura. Ed ecco allora, per manifestare contro la Gelmini hanno superato i 50 giorni di assenza tollerati, ora giustamente, scrive Libero, rischiano l'anno. Il record è a Napoli, dove le occupazioni sono durate un mese, e si presentano e si preannunciano una valanga di ricorsi per questi rischi di bocciature, anche se si fa notare dal ministero chi va bene a scuola non sarà bocciato, esiste comunque un margine di discrezionalità che permetterà a chi ha dei meriti di essere salvato, perché in genere diciamo, quando c'è l'assenza ed è accompagnata da un profitto insufficiente, ecco che arriva la bocciatura. Se invece ci sono dei crediti, l'anno viene salvato. In ogni caso, prepariamoci, perché c'è il rischio davvero che con le proteste, quindi con molti studenti che hanno superato i 50 giorni di assenza, una media di 50 giorni, a stretta norma di legge, rischierebbero la bocciatura. In primo piano. E allora, come è presumibile e come potete prevedere, tutti i grandi giornali si dedicano pagine e pagine soprattutto all'analisi dei ballottaggi delle amministrative. Tra l'altro vi ricordo ancora lo speciale dalle 8.20 alle 10, anche noi qui con Oscar Giannino, tanti ospiti, ci occuperemo di questo. Una rapida carrellata dei titoli li abbiamo visti, una rapida carrellata dei commenti, i commenti che si trovano su tutti i giornali, sia anche quelli orientati politicamente, è una dura scoppola per il centrodestra e per Berlusconi, non solo per Milano e Napoli ma anche per esempio a Cagliari, la vittoria del candidato del centro-sinistra, e l'analisi di ora che cosa può succedere. Stefano Folli in prima pagina del Sole 24 Ore, il titolo: un patrimonio dilapidato da troppi errori. In 15 giorni, scrive Folli, il volto dell'Italia è cambiato, la trasformazione è profonda e radicale. Certo, si tratta di un voto amministrativo, riguarda il governo delle città e manca la controprova che gli italiani voterebbero allo stesso modo se domani fossero chiamati a esprimersi nelle elezioni politiche. Ma è uno scenario inedito quello che emerge dal voto. 17 anni dopo la prima vittoria, anch'essa a suo modo rivoluzionaria, di Berlusconi, i ballottaggi segnano il tramonto di un'era politica. Questo è il dato che non può essere misconosciuto. Il presidente del Consiglio può affermare che il governo va avanti perché Bossi glielo ha garantito al telefono, può assicurare che ora si faranno le riforme. Maroni e Calderoli possono accennare alla necessità di un colpo di frusta, è tutto legittimo, eppure è poco convincente. Sul Foglio, Giuliano Ferrara, non c'è un minuto da perdere, questo è il titolo di prima pagina dell'editoriale, e inizia proprio così Ferrara: non c'è un minuto da perdere, Berlusconi è all'ultima spiaggia, chi lo nega è un suo avversario nascosto o un improvvido, ha perso di brutto, ha perso lui alla guida delle operazioni, ha perso male, un errore dopo l'altro, ha perso consegnando ai suoi avversari nella sua città le sue doti migliori: ironia, ottimismo solare, capacità di convincere. Il suo massimo problema è la credibilità, che è in fuga. Scrive poi Ferrara: tuttavia Berlusconi oggi non ha alternative politiche parlamentari, perché il voto premia gli outsider dell'anti-berlusconismo e non uno schema di gioco responsabile e di governo. Può forse ripartire, ma non senza una rottura della continuità con gli ultimi mesi o anni. Ora, subito. Questo è l'appello di Ferrara. In prima pagina del Corriere Massimo Franco dice: ora il rischio è che lo schiaffo diventato disfatta possa portare alla tentazione serpeggiante di un rompete le righe che il vertice del centrodestra si prepara a contrastare. A Silvio Berlusconi non basta dire che si tratta di una sconfitta attesa, sia lui che Bossi escono umiliati dal responso di Milano. Per Repubblica, Ezio Mauro, il direttore in prima pagina, parla di un'Italia pasticciata di quest'anni, in cui il voto fa chiarezza perché è univoco, e il tentativo di rimpicciolire il risultato di incantesimo a una dimensione locale è patetico da parte di chi lo ha trasformato in un test nazionale per un mese intero, mettendo a ferro e fuoco la campagna elettorale. Ancora uno sguardo ai giornali. Per esempio Libero, c'è una lunga lettera di Vittorio Feltri: caro Cavaliere, torni a fare il Berlusconi. Vittorio Feltri che dice: quello che è successo, caro Berlusconi lo sa meglio di me, una catastrofe per il centrodestra, ovvero PDL e Lega. Il punto è questo, la gente si è stufata non tanto di lei quanto della politica, che non ce la fa da troppo tempo ormai a discutere d'altro se non di sé. Vari italiani si sono resi conto che lei ha le mani legate, la testa occupata da enormi problemi personali, la Costituzione è un vincolo di ferro, la crisi economica mondiale ha fatto il resto. È evidente che dopo 20 anni di tribolazioni lei si è indotta a parlare più di sé che dei suoi elettori. E poi conclude Vittorio Feltri con un consiglio e una preghiera: provveda a tutti noi oltre che a se stesso. Buon lavoro e buona fortuna. E così Il Giornale in prima pagina, con Alessandro Sallusti il direttore, si chiede ora: la sola domanda che mi interessa è questa: il berlusconismo può fare ancora qualcosa per noi meglio e più di altri? Se la risposta è sì, avanti senza paura, che gli incidenti si superano. Se è no, non facciamoci la testa, perché cambiare sarebbe inevitabile oltre che giusto. Ma io credo che la risposta corretta sia la prima. Sull'Unità invece c'è l'editoriale di Concita De Gregorio, che parla, il direttore, che parla di una vittoria bella, perché è molto più di un successo elettorale, la conferma di quel che scriviamo da settimane e da mesi, quel che chiunque di noi viva la vita reale del mondo reale sente attorno a sé come una rivoluzione gentile, il vento è cambiato finalmente. E così anche Norma Rangeri, direttore del Manifesto, così diciamo chiude una carrellata, ecco, ce ne sono tanti, ogni direttore ovviamente è sceso in campo con il proprio editoriale. Norma Rangeri sul Manifesto parla di un voto di liberazione, una svolta, di magnifici risultati di Milano e Napoli che rompono l'incantesimo di un ventennio e travolgono i vecchi equilibri, infrangono lo stile di un ceto politico. Allora, ci sono poi le reazioni dei politici. Berlusconi l'abbiamo sentito, ha detto: abbiamo perso ma si va avanti. Bossi mi ha detto di sì, non è un dramma. Ci stavamo già lavorando, ha detto anche questa frase che è sicuramente il titolo di molti: ora i milanesi preghino Dio che non gli succeda qualcosa di negativo, perché la città non era amministrata male, e ora speriamo che questi qui si improvvisino in un mestiere che non hanno mai fatto. E quindi insomma questa frase, i milanesi adesso preghino, i napoletani anche loro si pentiranno tutti. Penso che a Napoli si pentiranno moltissimo e spero che non debba succedere così anche a Milano. È un Berlusconi che però dice: ora andiamo avanti. Tra l'altro, secondo Libero, con Salvatore Dama, in un retroscena, Berlusconi avrebbe anche detto così: è veramente un disastro, ci hanno fatto un culo così. Questa sarebbe stata a caldo la prima reazione di Berlusconi da Bucarest, che poi ha rilasciato dichiarazioni invece più improntate così, insomma, all'ufficialità se non altro. Per Repubblica e in realtà per tutti i giornali ora succederà qualcosa, nel senso che, come ha scritto Giuliano Ferrara, che tra l'altro sarà il nostro ospite proprio alle 8.30, la necessità di cambiare, sicuramente gli errori sono stati fatti e quindi la necessità di cambiare il partito c'è molto. Ora tutti puntano su quello che viene definito sia da Repubblica che dal Corriere che da Libero come il capro espiatorio di questa sconfitta elettorale, vale a dire pare Giulio Tremonti. Eccolo qui, lo leggiamo da alcuni articoli a pagina 3. Perché Giulio Tremonti? Perché Giulio Tremonti è colui che tiene i cordoni della borsa sempre molto chiusi, molto serrati. Ora Tremonti faccia la riforma fiscale, questo sarebbe stato l'accordo nella prima telefonata tra Berlusconi e Bossi, un colloquio gelido definito da Repubblica. Così anche guardate su Libero in maniera molto chiara: scarica barile, il capro espiatorio è Tremonti, il titolo a pagina 7. Molti nel PDL della Lega imputano alla politica dei tagli, alle scelte fiscali di Giulio, la colpa dell'esito delle urne. I ministri azzurri sono già tutti sul piede di guerra per riportare la regia dell'economia sotto il controllo di Palazzo Chigi. Chi va oltre in queste accuse è Francesco Verderami, che in un'analisi a pagina 6 del Corriere della Sera, dal titolo "Misure fiscali e piano per il Sud, parte l'assedio a Tremonti", spiega anche quella che è la strategia già messa in atto all'interno del governo. C'è sempre bisogno di un alibi, questo è vero, per giustificare una sconfitta, dice e scrive Verderami, ma è altrettanto vero che era già iniziato il pressing su Tremonti e ora che i ballottaggi hanno certificato la pesante sconfitta del ticket, vale a dire Tremonti-Bossi, Bossi sembra essersi finalmente schierato a fianco di Berlusconi, lasciando a Maroni il compito di ufficializzare a nome del Carroccio la manovra di accerchiamento al titolare di Via 20 Settembre. Un'operazione a vasto raggio che coinvolge gran parte dei ministri del PDL sta per essere messa in atto con una lettera indirizzata al Premier, primo firmatario il ministro Brunetta, perché alla prima riunione utile di governo venga inserito all'ordine del giorno il varo della legge delega per la riforma del fisco e il piano per il Sud. Si tratta di una mossa studiata durante l'ultimo vertice del PDL col cavaliere nei panni del regista. Ed è vero che ci sarebbero problemi tecnici, che secondo Gianni Letta bisognerebbe posticipare tutto, dato che l'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri è già fissato, ma Brunetta e con lui altri colleghi sarebbero intenzionati a forzare la mano. Se del caso, di riunioni ne faremo due. Dunque, secondo Francesco Verdenami, pare proprio anche già una strategia studiata, quella di una lettera firmata da alcuni ministri sotto la regia di Berlusconi, primo firmatario Brunetta, per mettere all'ordine del giorno la riforma del fisco e il piano per il Sud e dunque in qualche modo, aggiungo io, stanare su questo punto il ministro Tremonti. Fisco e Sud per il rilancio, tra l'altro, è anche il tema che trovate sviluppata a pagina 7 del Sole 24 Ore, articolo di Marco Rogari. Puntare sullo sviluppo, puntare sul rilancio del Sud, puntare sulla riforma fiscale. Sulla riforma fiscale è quello che ha sottolineato ancora come prima urgenza il presidente di Confindustria Marcegaglia, come racconta Nicoletta Picchio a pagina 13 del Sole 24 Ore, ieri l'Assemblea degli Industriali di Brescia e Varese. Deve essere la priorità per il governo se deciderà di continuare, questa è la frase di Emma Marcegaglia, e quindi avanti con la riforma fiscale. L'altro grande tema che emerge dalle elezioni amministrative è il cambiamento del partito del Popolo della Libertà, perché ormai pare che Berlusconi si sia convinto di voler cambiare. Secondo i più informati, Alfano sarà il coordinatore unico del partito. Questo così almeno dice il Corriere della Sera. Uno dei coordinatori, Sandro Bondi, si è subito dimesso. Uno dei tre coordinatori si è subito dimesso subito dopo il voto delle amministrative. Certo, se al PDL piangono, non ridono alla Lega. Dove, a parte la vittoria a Varese, anche in feudi, per esempio a Novara, che è la città del presidente Cota della regione, ha perso, ha vinto il centrosinistra. Quindi shock nella Lega, serve un colpo di frusta, così titola per esempio il Corriere della Sera. Oppure Bossi con la valigia pronta, ma l'alleanza tiene per ora, questo è a pagina 5 della Stampa. Certo, tutti si interrogano ora che farà la Lega nell'alleanza con Berlusconi. Beh, è abbastanza chiaro su questo il sindaco di Verona Tosi, leghista, che in un'intervista a Repubblica dice: non mi permetto di dare suggerimenti al presidente del Consiglio. Ma, chiede Rodolfo Sala, sta dicendo che forse è meglio faccia un passo indietro? Dopo una sconfitta così sonora, rifletterei seriamente su questa ipotesi. Insomma, abbastanza chiaro, Tosi dice: inutile girarci intorno, come disse Bossi, se si perde a Milano è Berlusconi a perdere, perché la linea l'ha data lui. Spetta dunque al Presidente del Consiglio fare un'analisi seria della situazione. Un Tosi, insomma, che in maniera molto chiara chiede il passo indietro. Lo chiedono invece il passo indietro le dimissioni, ma è abbastanza comprensibile, sull'onda anche dell'entusiasmo della vittoria. Bersani, leader del PD, intervistato da Repubblica a pagina 9, dice: il Premier lasci, ormai è alla paralisi, così come Vendola. Che dire, per chiudere questa pagina, poi ci occupiamo d'altro dopo il traffico delle amministrative, segnalo due curiosità. La prima è che Berlusconi ha perso anche ad Arcore, quindi nella sua Arcore, dove ha vinto al ballottaggio la candidata del centro-sinistra Rosalba Colombo, ha perso anche, fa notare qualcuno, a Casoria, la città di Noemi Letizia, vabbè. E la seconda curiosità è questa, sul trionfo, perché trionfo numerico, di De Magistris a Napoli. Indovinate chi ha detto questa frase: ha meritato di vincere, anzi, ha meritato di trionfare. L'ha detto in un'intervista al quotidiano nazionale Clemente Mastella, colui che disse: se vince De Magistris mi suicido, poi ha detto no, ma era uno scherzo, si sa, adesso dice ha meritato il trionfo. Auguri. In primo piano. Al Allora, abbandoniamo per il momento la politica. Come detto, dalle 8.20 faremo uno speciale con Oscar Giannino fino alle 10 per concentrarci un po' di più su questo voto dei ballottaggi. Vediamo le altre notizie che trovate comunque sui giornali, anche se ovviamente gran parte dei giornali sono occupati dalla politica per l'appunto. Beh, intanto purtroppo questa vicenda politica ha oscurato quello che è stato un terribile attentato avvenuto in Afghanistan, che ha colpito i nostri soldati, un kamikaze contro gli italiani, 5 militari feriti a Herat, e uno era in gravissime condizioni, pare che sia migliorato. I morti in realtà sono 5, sono un poliziotto afghano e 4 civili che erano nella zona dove c'è il Provincial Reconstruction Team italiano, dove lavorano soldati e civili. Nella città di Herat, considerata tra l'altro una delle zone meno belligeranti, una delle zone più pacificate dell'Afghanistan. Ci sono state ore di battaglia, probabilmente 2 kamikaze, una sparatoria che è durata vari minuti. Sono intervenute anche le forze speciali afghane per cercare di limitare i danni. Beh, insomma, il Messaggero, tra l'altro, sotto l'articolo "I talebani attaccano, feriti 5 soldati italiani", intervista Staffan de Mistura. Staffan de Mistura è un ambasciatore, diplomatico di lungo corso, è italo-svedese, è stato scelto dal segretario generale dell'ONU per rappresentare le Nazioni Unite in Afghanistan. È intervistato da Anna Guaita, dice: "Questo orrore non fermerà la transizione, sono momenti orribili e tristi, ma anche i momenti in cui non bisogna mostrarsi deboli. I talebani cercano di far credere di essere più forti di quello che sono e colpiscono proprio in questo momento, perché questo intensificarsi della violenza è l'ultimo passo prima di sedersi al tavolo a discutere. Perché colpire Herat? I talebani cercano di mostrare che mentre noi sosteniamo che la situazione in queste province è tranquilla, in realtà non lo è, ma sappiamo che è una menzogna. La situazione è davvero più tranquilla. Difatti i loro attacchi sono chirurgici, sono ben organizzati, certamente dolorosi, sanguinosi, ma condotti da piccole squadre perché non hanno né il supporto della popolazione né grandi riserve di uomini". Così Staffan de Mistura, intervistato dal Messaggero. L'altra notizia, certamente, che proviene dall'estero, che coinvolge anche l'Italia, una notizia che coinvolge, diciamo, tutto il mondo, è l'annuncio dell'addio al nucleare a partire dal 2022 da parte della Germania. Angela Merkel ha annunciato, come racconta Beda Romano a pagina 17 del Sole, che con questo dietrofront del governo tedesco, dopo la catastrofe ambientale dell'impianto di Fukushima in Giappone, l'energia delle 17 centrali atomiche in funzione in Germania sarà dal 2022 sostituita da fonti rinnovabili. Tutti vi dedicano grande risalto, la locomotiva tedesca dice addio al nucleare, anche una pagina sul Corriere della Sera. Beda Romano analizza anche quelle che sono le motivazioni anche politiche, probabilmente, perché in vista delle elezioni l'accusa è quella di voler avvicinare i verdi, sempre più forti, sempre più strategici dal punto di vista politico, da parte di Angela Merkel. Certo è che questo voltafaccia, come viene definito, ha creato anche qualche malumore, sicuramente è stato un voltafaccia molto molto denso di significati politici e non solo, anche energetici, ma certo una notizia molto molto importante. Tra l'altro, riguardo al Sole 24 Ore, vi voglio ricordare, prima di passare alla cronaca, che c'è una guida molto interessante su che cosa? Lo spesometro. Sapete che lo spesometro è in agguato, partirà tra poco, debutta di fatto dal 1 luglio, è l'obbligo a chi ha la partita IVA di segnalare al fisco i nominativi di chi fa acquisti oltre certe soglie, no? I 3.600 euro, i 3.000 euro, ma comunque tutti i dettagli li trovate in una guida molto utile sul Sole a pagina 33, 34 e 35. Perché? Perché l'Agenzia delle Entrate ha fatto una circolare per spiegare bene tutti i dettagli di questo spesometro che entrerà in vigore tra poco, vale a dire, lo ricordo, la necessità di segnalare per chi ha la partita IVA i nominativi al fisco di chi fa certi acquisti che superano una certa soglia in migliaia di euro. Oh, la cronaca impazza ancora il caso Avetrana, non passa giorno senza che Avetrana non abbia il suo colpo di scena. La vicenda ultima è quella della scarcerazione di zio Michele, colui che era stato accolto con striscioni, pena di morte, datecelo a noi, consegnatecelo, questa dimostrazione sempre che cosa significhi andare dietro a queste manifestazioni popolari. Ebbene, colui che secondo la popolazione sarebbe stato scannato in pubblica piazza perché già considerato il colpevole numero uno, è stato scarcerato perché con una decisione effettivamente un po' a sorpresa del GIP non era presente al momento del delitto. Secondo il magistrato, la sua unica colpa, che peraltro insomma non è una colpa da poco, fu quella di occultare il cadavere di Sara. Zio Michele libero, ultima sorpresa del giallo infinito su Libero, e anche Goffredo Buccini, che io lo cito tutti i giorni perché fa dei racconti straordinari, quella chiavetrana, bisognerebbe prendere i suoi articoli e scriverne quasi una sorta di romanzo anche pulp. A pagina 30 del Corriere, la follia di tutto questo è che zio Michele Misseri, che è stato liberato dal carcere, è stato per la verità tolto dal carcere ed è stato messo subito con un trattamento sanitario obbligatorio in ospedale, continua a insistere: no, ma io sono colpevole. Per cui adesso c'è questo paradosso incredibile per cui sono stato io, ho ammazzato Saretta, mia figlia non c'entra, mia moglie nemmeno, che schifo come l'hanno trattata. Queste le uniche parole, le ultime parole prima di uscire dal carcere, diceva a tutti: perché mi liberano? Io sono un mostro, io sono il colpevole. E adesso c'è il paradosso dei paradossi ad Avetrana: è stato scarcerato colui che secondo i magistrati ora non è il colpevole numero uno dell'omicidio, e secondo lui stesso invece dice: no, se mi sono autoconvinto, sono io il colpevole, invece dovete lasciare mia moglie e mia figlia perché loro non c'entrano nulla. E continua a dire a tutti: state liberando un colpevole, il colpevole sono io. Vabbè, follia nella follia di Avetrana, ma ormai quello più che un'indagine è diventato davvero un qualcosa di incredibile, tutto sotto i riflettori ovviamente. Gli speciali di Radio 24. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adora e vicinina, ti te domine Milano. Ma mi sembra che l'abbiamo già liberata Milano. Oh no. Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, cosa na giornata su n'aria serena dopo una tempesta. Napoli è stata liberata e questa secondo me è la cosa più bella di questa campagna elettorale. Napoli tornerà a essere finalmente libera. Che bella cosa na giornata su. Sono le 8:23, eccoci qua. Allora, cari ascoltatori, inizia il nostro speciale fino alle 10. Ci sarà con noi anche tra poco Oscar Giannino per parlare di cosa? Beh, avete sentito, insomma, le voci le avete riconosciute, probabilmente sono le voci dei neosindaci delle due città più importanti in cui si è votato, Milano e Napoli, cioè Giuliano Pisapia e Luigi De Magistris, che parlano di Milano liberata, Napoli liberata, insomma. Ma non ci sono solo queste due grandi città, c'è la questione di che succederà ora al partito, al Popolo della Libertà, con certamente il fatto che Berlusconi dice ora nervi saldi, ma qualcosa ci sarà certamente da cambiare. C'è anche Berlusconi che ieri ha detto questa frase che campeggia su tutte le prime pagine dei giornali: ora per Milano gli elettori milanesi preghino Dio perché chissà, insomma, questi che non sono abituati a governare ora che combineranno. E anche su Napoli si pentiranno tantissimo. Ma insomma, c'è da discutere del voto, del dopo voto, di cosa succederà. Tra l'altro, cosa succederà anche, per esempio, tra la Lega e il Popolo della Libertà. Oggi su tutti i giornali ci sono già i commenti, ci sono già gli scenari di quello che potrebbe essere dopo questa batosta elettorale. E ieri, per esempio, Radio Padania che cosa ha fatto? Ha mandato, sapete che uno dei leitmotiv di questa campagna elettorale è stata arrivano i comunisti, soprattutto a Milano. E allora che cosa ha fatto Radio Padania? Ha mandato quella che è la nuova canzone che insomma dovrebbe un po' riecheggiare tra tutte le vie, tutte le piazze milanesi. Bandiera rossa! Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Chissà se Oscar Giannino già canta, no? Non lo so, non lo so. Vediamo, vediamo, mettiamogliela in cuffia, vediamo un po'. Questa è andata in onda su Radio Padania, mica su Radio Armata Rossa, eh. E viva il socialismo e la libertà. Oscar, buongiorno, eccoci qua. Tavarish. Tavarish Oscar. E poi che cosa ha fatto Radio Padania? Guarda, ha fatto qualcosa di più, Oscar. Ti faccio sentire come hanno giocato su Bandiera Rossa, senti. Compagne lavoratrici, compagni e lavoratori, a nome del Comitato di Liberazione Nazionale dal Berlusconismo, Leghismo Padano, vi do il benvenuto in questa città finalmente libera. Milano è libera. Pisapia ha vinto, è sindaco e noi siamo liberi. Berlusconi è un ricordo, la Lega un po' meno, ma noi siamo finalmente liberi. Benvenuti su Radio Milano Liberata dal compagno Roberto Ortelli. Chi vi parla è stato autorizzato dal Soviet a diffondere questo messaggio di liberazione nazionale. Eccoci qua, Oscar. Beh, Oscar. Ma però è apprezzabile che mostra un po' di autoironia dopo, certo, tutte le botte che hanno preso, no? Cioè... ma certo. Allora, Oscar, tra poco inizieremo dopo la pubblicità. Ti vorrò chiedere, intanto, se ci si chiedono tutti cosa succede ora a Berlusconi. Insomma, in un paese serio una botta così che si deve al fatto che lui si è fatto fare la conta dovrebbe indurlo a pensare che non è vero quello che ha detto ieri. Tra l'altro lo chiederemo tra poco a Giuliano Ferrara, che oggi è stato durissimo sul Foglio. Condivido, anzi io anche di più. Poi l'altra domanda che mi chiede è questa: Bersani esulta, il PD è giusto, il centrosinistra hanno vinto al primo turno Torino e Bologna e al secondo turno ai ballottaggi, ma voglio dire, i candidati che hanno vinto, anche a Cagliari, mettiamoci anche a Cagliari, sono due di Vendola e uno che manco è del suo partito, cioè dell'Italia dei Valori. Quindi il PD, a differenza del centrodestra, perde con i propri, ma almeno ha una prospettiva che può contribuire a farlo vincere. Quindi, malgrado le botte che ha preso, ha sempre una buona cera e c'era Grey. E allora, intanto, 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Come vedete qua c'è Oscar Giannino, staremo insieme fino alle 10. Prigioniero poi... oramai di Milan, questo è l'andamento elettorale. Vabbè, non commento, ma di Tavares Milan dovreste dire. Vabbè. E poi di che altro dovremmo parlare? Della Lega. La Lega la fatale Novara, come si diceva un tempo del Risorgimento, non è fatale solo per i Savoia, a quanto pare. Esatto, Novara, città di Cota, ha perso anche lì. Mi pare di capire, quindi anche lì è interessante, perché nel centrodestra non c'è più l'aria che tirava l'ultimo anno e mezzo, due anni, cioè se il PDL va male dopo la cosa fine, eccetera, la Lega... in realtà alleata prende ancora più voti di quelli che il PDL perde. No, oramai è l'alleanza in quanto tale che penalizza anche loro. Forse ci devono pensare, 17 anni di mancate promesse di tasse mai abbassate iniziano poi... a pesare nella testa, nelle tasche. E poi ti voglio dire due cose dai giornali. Intanto c'è già il capro espiatorio. Tu lo sai che c'è già il capro espiatorio, che è Giulio Tremonti, è questo sui giornali, perché... Io difenderò sempre Tremonti, senza il suo freno al deficit andiamo ancora peggio. Però pare che il ministro Brunetta stia già firmando una lettera primo ministro dei ministri. Brunetta è 17 anni che firma lettere contro Tremonti. È l'eterno... lo dico, è anche una commedia già vista, nel senso che se buttano oltre ai tanti errori che hanno commesso anche quel po' di acqua buona che avevano, cioè il freno al deficit, testimoniano di essere davvero alla fine del loro ciclo a questo punto. E vabbè, allora prima della pubblicità ti faccio un quiz. Chi ha detto della vittoria di Luigi De Magistris ha meritato di vincere, anzi ha meritato di trionfare, e gli faccio i miei migliori auguri. Lo so, Di Pietro. Clemente Mastella. Lo so, lo sapevo che era Clemente Mastella. Però colui, colui che minacciava il suicidio, fortunatamente poi ha detto che però era un modo di dire, scherziamo, non ci si suicida mai. Assolutamente. Da buoni cattolici. E allora, 800 24 00 24, se volete essere della partita con noi per parlare di quello che è successo a Milano, a Napoli, sentito Pisapia dice Milano è liberata, De Magistris, tutti liberati, Napoli, vabbè, siamo tutti più liberi, tutti liberateci più... dai rifiuti però, ecco, almeno quello, a Napoli voglio sperare che avvenga, ecco. Quello sì, non si sa come ancora, perché però insomma, questa è una delle promesse elettorali di De Magistris. Gli speciali di Radio 24. Eccoci qua alle 8:35, sono Alessandro Milan, qui a fianco c'è Oscar Giannino, staremo insieme fino alle 10, caro Oscar. Per oggi che è la visitazione di Maria, speriamo che sia un giorno di importanza altrettanto importante. Forse per quello che il Premier ha detto di pregare Dio da parte degli elettori milanesi, Questa frase però è stato l'unico momento, per il resto Berlusconi ha mantenuto ha fatto dichiarazioni abbastanza... Io invece ho dato un'altra interpretazione, secondo me Berlusconi si è reso conto alla fine degli errori che aveva commesso e quindi si chiuderà in preghiera. Si chiuderà in preghiera, dice. Vogliamo chiedere intanto al primo nostro ospite che salutiamo, è il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. Direttore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua, siamo anche con Oscar Giannino, dall'editoriale oggi di Giuliano Ferrara sul Foglio. Il titolo: non c'è un minuto da perdere, Berlusconi all'ultima spiaggia e chi lo nega è un suo avversario nascosto, un improvvido, ha perso di brutto, ha perso lui alla guida delle operazioni. E poi lei lo invita a una rottura della continuità con gli ultimi mesi, anche degli ultimi anni. Cosa dovrebbe fare secondo lei il Premier ora? Convocare per sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre elezioni primarie generali nel PDL aperte a tutti gli elettori, con un regolamento semplice e ferreo, nominando un commissario straordinario che le gestisca, per eleggere il capo del PDL, sollecitando una competizione con candidati a lui alternativi, e per eleggere tutti i coordinatori regionali, quindi diciamo mettendo in un assetto di rivoluzione democratica e di coesione politica vera un partito e un movimento che oggi sono frammentati in correnti e gruppi, diciamo che mi sembra fondamentalmente siano governati dall'idea del vantaggio personale, della carriera dei loro leader, eccetera, e non da e spesso almeno sono privi diciamo di quell'anima politica che invece è essenziale per recuperare nel rapporto con gli elettori di Berlusconi e con il paese. Questo naturalmente dovrebbe servire come basamento di rilegittimazione e di cambiamento nel suo modo di operare, nel modo di operare di Berlusconi, per il rilancio dell'azione di governo, che altrimenti diventa l'ennesimo aggiornamento o peggio ancora una faida ministeriale in cui tutti i difetti di una vita di partito degenerativa si ripercuotono sul governo. Berlusconi è un capo carismatico, il suo carisma originario è ancora forte, quello degli ultimi anni sotto l'assedio arcigno di magistrati, di media, mass media e gente di denari, diciamo, si è appannato, si è offuscato. Bisogna che lo ritrovi nel contraddittorio, mettendosi in gioco. Berlusconi ha scelto la via dell'understatement, dice: ma io vado avanti, ho l'accordo con Bossi e gli elettori di Milano e di Napoli preghino il buon Dio. L'understatement è una cosa meravigliosa, naturalmente, tutti ne siamo convinti, cioè essere un po' minimalisti evita errori, atteggiamenti sopra le... Però non fa risalire la china, troppo, insomma. Così troppo. Ma secondo me Berlusconi ha proprio bisogno di questo, perché appunto la mia analisi è che la cosa grave, ovviamente la perdita di Milano si commenta da sola, su, non scherziamo, non sono state elezioni in Basilicata, sono state elezioni a Milano. E voglio dire, insomma, Berlusconi ha un tremendo bisogno di rimettersi in gioco, perché rimettersi in gioco è quello che gli ha sempre portato fortuna. In fondo perché la gente ama Berlusconi ancora, molta gente ama Berlusconi, con le note eccezioni di questo turno elettorale, perché è stato un uomo capace sempre di rimettersi in gioco, che ha conosciuto il dolore, che sa che cos'è la sconfitta, che sa ascoltare gli italiani. Se si arrocca è finito l'ascolto e diventa una statua da Museo delle Cere. Ferrara, lei dall'inizio dell'anno diceva Berlusconi con una certa energia, insomma, un certo calore, guarda che se non metti mano a un'accelerata economica, gli stati generali dell'economia, chiamiamolo come vogliamo, ma insomma una frustata, è difficile che arrivi all'opinione pubblica e soprattutto ai tuoi, alla pancia, alla testa, al cuore dei moderati, l'idea che sei quello che tutte le volte che è caduto appunto hai questa strepitosa capacità di rimetterti in piedi, perché la stai perdendo questa cosa, quindi dalla sta frustata. Alla fine si è capito che Tremonti considerava il suo invito poco più che un'estemporanea cosa, insomma, come fa sempre Tremonti, come tutti, a chiunque con buon cuore gli dà anche buone opinioni, Giulio riserva questo tipo di atteggiamento, non è venuto questa risposta che le auspicava. A questa nuova sollecitazione forte, organizzativa ma insieme politica, rimettersi in discussione aprendosi al contrasto di opinioni interno, quello che lei ci ha appena spiegato, è possibile immaginare che se non è venuta nei mesi alle nostre spalle la frustata dell'economia per in effetti per il fattore Tremonti, su, diciamocelo, che ha molti meriti ma ha questo difetto di fondo di non concepire un confronto di opinioni sul suo verbo, è possibile immaginare su più vasta scala che si faccia sulla stessa leadership, su come si organizzano anime culturali diverse all'interno di un partito, come lei ci ha detto, oppure quello che abbiamo alle nostre spalle in questi ultimi mesi, il fatto di non esserci riusciti neanche sull'economia, è un po' il segno che quella capacità di rimettersi in piedi forse è al tramonto una volta per sempre. Lei che pensa, Ferrara? Ma le sconfitte servono a questo, a verificare le cose con radicalità, in modo significativo. Cioè bisogna prima di tutto mettersi, diciamo, in mente questo. Che cosa sarebbe successo, anche se naturalmente la storia non si fa con i se e con i ma, se invece di affrontare queste elezioni in modo assolutamente sgangherato e dopo, diciamo, essersi fatto un po' tacitare dalle riserve di Tremonti sul rilancio dell'azione di governo nel campo economico, Berlusconi avesse fatto queste elezioni con gli stati generali dell'economia, cioè entrando dentro i problemi posti da Confindustria, lavorando nell'establishment anche per dividerlo, certo, cercando di riproporre, ma non un sogno carismatico generico, no, di riproporre un progetto agli italiani. Se avesse fatto questo, penso che avrebbe mobilitato la borghesia milanese in modo competitivo con Pisapia, insomma, e penso che avrebbe potuto giocarsela molto meglio e forse vincere le elezioni a Milano. Allora, le sconfitte servono a questo, a capire che si è sbagliato qualcosa, che bisogna cambiare e modificare realmente le cose. Il punto, Giannino, è questo. Tremonti fa il suo mestiere, che in situazione, diciamo, alla greca è certamente caratterizzato dalla necessità di dire molti no e di essere molto rigido sulla tenuta dei conti pubblici. E questo fa benissimo. E questo è inevitabile, però il mestiere di Tremonti non è guidare il governo, esatto, non è vincere le elezioni e conquistare il consenso, non è conquistare il consenso su un progetto, diciamo, commisurato alle promesse e alle premesse del berlusconismo. Quello non è il mestiere di Tremonti, è il mestiere di Berlusconi, del Presidente del Consiglio. Quindi di fronte a un risultato come questo, vabbè, prima si poteva anche discutere, diciamo, anche se io sono stato, diciamo, tra i primi ad aprire un fronte critico, sebbene senza mai, diciamo, mescolarmi con atteggiamenti personalistici e opposizioni strumentali, ma un fronte critico con la filosofia, diciamo, un po' immobilista di Tremonti, legata appunto al suo ruolo. Però adesso non si può più discutere questa questione qui. E Tremonti stesso, con una persona intelligente, se ne deve rendere conto. Bene, inventi una strategia che sui conti dello Stato pesa molto poco, e cioè inventi una strategia d'attacco sul terreno dell'economia, di liberalizzazioni, di molte riforme vere, radicali a costo zero. Bisogna rimobilizzare anche il rapporto con il blocco sociale, perché se stiamo lì a difendere i notai, i tassisti, i farmacisti, tutta gente che io rispetto e a cui voglio bene, ma insomma, voglio dire, se stiamo lì a difendere lo status quo e per il sud a fare progetti generici, vaghi, e non invece a creare una grande zona franca nel sud che attiri gli investimenti europei e mondiali, sfruttando anche il fatto che in una certa misura nel sud Italia, se non facciamo un piano, si è ristabilito un minimo di ordine pubblico e di presenza dello Stato sul territorio, se non facciamo qualcosa di serio in questa direzione per portare il paese, Tremonti stesso lo dice, cresce al 3% e anche di più nel centro-nord. Allora... però su questo io temo che ci sia stato, vede Ferrara, proprio su questo punto una specie di frattura. Ma sì, perché, vede, parliamoci chiaro, per noi che conosciamo da anni, facciamo questo mestiere, quando si arriva di nuovo alle marce degli imprenditori come a Treviso, i 3.000 silenziosi, quando in Sardegna, perdere Cagliari, ma perché? Perché ci sono stati 25.000 in piazza per le tasse, quando si vede tutto l'establishment bancario, di Milano, tutto, lei lo sa meglio di me Ferrara, che ha scelto Pisapia proprio senza esitazione alla fine, tutto il mondo di Banca Intesa, sono tutti là, al matrimonio di Passera era per così dire una fotografia perfetta di questa roba qui, vuol dire... Io sono per la difesa della privacy, ma no, i matrimoni sono diciamo l'elemento pubblico. No, d'accordo, infatti ha ragione a tirarmi le orecchie addirittura, però il punto è che c'è stato evidentemente un equivoco su questa posizione, proprio di Giulio Tremonti, d'accordo il rigore, ma lui viene interpretato come il no sia per le meno tasse, almeno più civili, ecco, perché la gente oramai inizia a dire tu non puoi metterci la ganasce e contemporaneamente dirci no alle ganasce, stai lì da tanti anni, sia dal punto di vista del sud che si sente trascurato e lo vede a torto, ha ragione, ma lo vede come il simbolo del fatto che non si fa niente di serio tranne che annunciare la stessa roba da 7 anni, il piano per il sud, e al nord contemporaneamente quello che resta dei vecchi poteri, un tempo si sarebbe detti forti, adesso è un po' ridicolo dirli così, però stanno oramai tutti dall'altra parte, anche lì un bilancio politico è necessario, io credo che per il centrodestra o lo si fa in una maniera aperta, ma se si somma ecco, al fattore questo... personale di Berlusconi, il fattore personale di Tremonti è finita. Giannino, questo è veramente il problema, o lo si fa, come ha detto lei, in una maniera aperta, cioè la natura del berlusconismo è l'apertura, è la trasparenza, perfino esagerata, voglio dire, di Berlusconi si sa tutto, quello che spiffera l'orecchio di Obama, quello che fa a casa sua, è trasparente fino al parossismo, fino all'assurdo. Però viva, allora, no? Berlusconi non può fare un'operazione, adesso un contratto con Bossi, alcuni vantaggi politici per la Lega che è in difficoltà, poi con Tremonti lo sistema perché gli garantisco la tenuta dei conti, ma contemporaneamente, poi nel PDL con le varie componenti. Questa roba qui non è la sua materia, non è la sua materia, Letta è molto indebolito nel governo, che poteva mediare questo tipo di cose, non ci sono più compensazioni perché senza Casini e senza Fini la coalizione è ridotta all'osso, diciamo, e quindi tutti i problemi si... Allora Berlusconi deve rilanciare sul terreno che è proprio, che è suo, che lui conosce bene, che è il rapporto con il paese. Non si fa una svolta di governo senza recuperare un rapporto con il paese. Ferrara, noi la dobbiamo salutare, mi dica solo in maniera flash, secondo lei fa più dolore a Berlusconi, che lo conosce, la perdita di Milano o il 65% dei magistris, che rappresenta ciò che più di lontano c'è da Berlusconi? Il 65% dei magistris è una cosa, diciamo, che mi fa boccheggiare, quindi non posso neanche giudicare del dolore di Berlusconi, è tale il dolore che provo io. Un magistrato, diciamo, che si è comportato in modo perlomeno dubbio all'interno della sua corporazione in relazione allo Stato di diritto, che viene premiato dal 65% dei napoletani, li vorrei prendere tutti a calci nel sedere, quei 65% di napoletani che hanno votato De Magistris personalmente. E so che questa è una dichiarazione, diciamo, impegnativa, abbastanza sulle labbra, ma li vorrei prendere tutti a calci nel sedere, altro che pregare il buon Dio e invitarli a pentirsi. Però l'hanno fatto, e quando parla il popolo deve essere ascoltato, nel senso che bisogna prendere misure serie. Allora, intanto noi la ringraziamo per essere stato con noi, Giuliano Ferrara, direttore del Foglio. Grazie, buona giornata ovviamente, e andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Ho sentito. No, ma prima lo vogliamo leggere il titolo di Libero? Il titolo di Libero. Una batosta per Silvio. Chiagne e non fotte. Chiagne, ma cioè, questi sarebbero i giornali amici del Cavaliere. Chiagne e non fotte. Beh, ma si sa che Libero, dai, fa dei titoli, no? Si sbizzarriscono sui titoli. No, perché di solito, il giornalismo è mezza verità quando è di parte. Quindi qui la mezza verità è che Chiagne, la verità vera è che non. Capito? Gli speciali di Radio 24. Eccoci qua alle 8 e 49 minuti. Allora, Oscar, siamo qua a parlare di se abbiamo sentito Giuliano Ferrara. Insomma, addirittura prenderebbe a calci personalmente i napoletani che... Io invece devo dire la verità, io i napoletani un po' li capisco, perché il voto di De Magistris, che è sicuramente uno dei voti più singolari su cui mettere a frutto l'intelligenza interpretativa, è un voto che insieme dice un chiaro no al fatto che il centrodestra non aveva un candidato interpretato come all'altezza dei bisogni di discontinuità della città, e contemporaneamente è un voto clamoroso di discontinuità verso il centrosinistra. Poi il centrosinistra è abile, secondo me, perché il centrosinistra in tutte le città, laddove ha perso le primarie, come a Milano, no? Oppure come a Cagliari, dove non ha un proprio candidato, però ha costruito un meccanismo. Io questo gli do atto al PD. Il PD ha una strategia di coalizione, come sempre, molto più efficace di quella del centrodestra, perché laddove perde con i propri, e quindi il centrodestra può tentare di dire sì, ma anche il PD ha poco da ridere, ma non è vero, perché il PD poi ha una strategia di coalizione per la quale, con le primarie e comunque affidandosi a Italia dei Valori da una parte, a SEL dall'altra, riesce a rimettersi in piedi, anche magari con gruppi consiglieri falcidiati, perché se uno va a vedere i PD a Napoli rispetto ai 10 anni da cui usciamo, è assolutamente falcidiato. Allora, il fenomeno napoletano per me è un fenomeno che ha due segni: il segno del no al centrodestra, Lettieri era un candidato sbagliato, aveva ragione chi come Antonio D'Amato, l'ex presidente di Confindustria, diceva non si possono avere dubbi tra Lettieri e quello che vuol dire rispetto all'organizzazione tradizionale, ha scelto De Magistris. Quindi lì, se Antonio D'Amato sceglie De Magistris, ci possiamo stupire che due napoletani su tre di quelli che hanno votato, poi l'assenzione è stato basso, ci possiamo stupire di questo? No, perché se tra i sederi a prendere a calci da Giuliano Ferrara c'è anche quello di Antonio D'Amato, io penso che ci sia da riflettere, ecco, questo. Com'era dire. Invece il titolo del Riformista, prima ti esercitavi dopo il Chiagne, il titolo di Riformista, sì, perché che Emanuele Macaluso faccia un titolo parafrasando la Padana d'altri tempi, Riformista fuori dai bar, mi ha un po' colpito, perché come sempre si perde un po' tutti la misura, ecco, per così dire. Sì, insomma, intanto sentiamo il primo ascoltatore, anzi la prima ascoltatrice, all'800240024, Rossella, che ci chiama da Acero. Dica lei, Rossella, che non me la... buongiorno, da Milano. Buongiorno, sì, io volevo semplicemente fare questo commento. Dunque, ho 45 anni, sono una dirigente del settore privato, ho una formazione superiore, diciamo, dal punto di vista accademico, ho un reddito sicuramente medio-alto, non ho votato però il centrodestra, eppure il mio profilo, diciamo, in linea di massima dovrebbe essere il target tipico per un elettore di centrodestra. Perché non ho votato centrodestra? Per quello che poi in fondo è stato detto da Giuliano Ferrara, che non amo molto come giornalista, però non posso che concordare con quello che ha detto, cioè il centrodestra a Milano sicuramente, ma direi anche a livello nazionale, ma ora ragioniamo di Milano, si è presentato come una forza retriva, una forza becera che ha calcato dei temi assolutamente non in linea con i tempi e con le esigenze. Cioè, tutta questa battaglia di retroguardia sulle moschee in una città nella quale noi cittadini già tutti i giorni siamo abituati a confrontarci con il diverso, che sia il diverso di una cultura o il diverso della coppia omosessuale, a me francamente non mi pone dei problemi. Quello che invece mi pone dei problemi è la mancanza di progettualità economico-sociale, cioè il mobilitare, come ha detto, il mobilizzare, mi sembra abbia detto Giuliano Ferrara, il tessuto economico-sociale, assumere un atteggiamento riformista verso questa nostra economia cittadina. Ma lo poi direi, come ho detto prima, che sarebbe un discorso da allargare a livello nazionale. Sì, Rossella, poi è stata sbagliata su questo, Oscar, l'abbiamo già detto, è stato detto più volte, è stata sbagliata questa campagna elettorale nei toni, nei modi. Ma come mai secondo te c'è stato questo scentramento della campagna elettorale? Perché nel PDL, che in realtà nell'ultimo anno era reduce da un fenomeno per cui nel nord non andava bene dopo la rottura confini, mentre la Lega andava benissimo, l'illusione è stata quella di fare il PDL, di prendere voti come PDL, mantenere voti come PDL o addirittura aumentarli, assumendo i toni che la Lega non ha più, che erano quelli della Lega oltranzista di un tempo. Questo è un errore tragico, e lo stesso errore, per capirci, della accoppiata Sallusti-Santanchè. Credere di fare i manganellatori e che l'elettorato, la pancia moderata di una città borghese del terziario avanzato come Milano, si tenga come si tenevano gli avamposti di Abir el Gobi, no? Capisci? Con i pugnali tra i denti. È una sciocchezza culturale, anche perché dopo 17 anni di promesse di Stato leggero e tasse abbassate non mantenute, ripeto, tutto il rigore di fronte al quale mi inginocchio, Giulio Tremonti finisce per essere assunto dalla parte che vuole più dinamismo, più crescita, la vede in altri paesi che hanno preso botte non inferiori alle nostre, qua no, come promesse mancate e soprattutto cattiva cultura di fondo. 17 anni, ma il manganello va riposto. Due anni fa a Napoli Berlusconi ha vinto il 2008 con le promesse, nel 2008, non un secolo fa, non 17 anni fa, 2008, certo. Adesso all'ultimo convizio è stato fischiato e i risultati poi sono, tra l'altro c'è un ascoltatore da Napoli. Però attenzione, la differenza tra il prima e il dopo è stato che anche lì due promesse, i rifiuti e il piano sud, se tu per due anni continui a dire bla bla bla bla, i fatti non si vedono, sei come la Iervolino, ecco. Berlusconi come la Iervolino. Mi dispiace, ma è un fatto questo. Mario da Napoli, buongiorno. Mario. Buongiorno. Lei chi ha votato? Chi ha votato, si può dire? Sì, si può dire. Allora, io sono uno del 65% che prenderebbe calci nel sedere della Ferrari. Però li prendo volentieri, perché per quello che ha appena detto Oscar Giannino, che tra l'altro condivide i gusti musicali, quindi saluto. Perché la Iervolino ha fatto disastri e quindi il PD, qualsiasi candidato avesse proposto, sarebbe stato fuori gioco. Il PDL, con le promesse mancate, ma poi soprattutto con la scelta di un candidato non forte, cioè non una personalità di garanzia, è oltretutto discutibile anche nei rapporti con Cosentino. Esatto, con Cosentino, i rapporti familiari con la Camorra, i fratelli. A Napoli, chiunque si fosse candidato con un minimo di partecipazione, di coinvolgere la massa, avrebbe vinto De Magistris, Pinco Pallino, chiunque. Addirittura De Magistris o Pinco Pallino avrebbero vinto. Sì, chiunque contro questa avversario, libero dallo schema dei partiti prima di tutto e dallo schema della criminalità, perché a Napoli il nostro grande problema è la criminalità. Mi rendo conto che da Milano va bene a ricordarlo, cioè, perché poi il problema non è solo vostro napoletano, lo sappiamo anche noi, il problema Milano, della criminalità nel sud è un problema nazionale, non vostro, quindi è così. Noi facciamo i conti tutti i giorni con il sopruso, con l'abbozzare a situazioni che tutti quanti noi ci rendiamo conto che si possono risolvere anche in modo semplice, ma c'è qualcuno che non vuole risolvere. Per esempio, io le faccio notare questo, guardi, lei che viene da Napoli, oggi sul Mattino, gli altri quotidiani nazionali sono più distratti, c'è il commento al rapporto sul 150esimo dell'Unità d'Italia che è stato ieri presentato allo Svimez. Lo Svimez è uno dei più grandi osservatori dell'economia meridionale. Io sono rimasto molto colpito ieri per capire sempre perché tanti napoletani hanno scelto, no, De Magistris. Sono stato molto colpito perché in tanti anni che leggo i rapporti dello Svimez io non ricordo di aver mai letto la durezza di una critica così spietata come quella che nel rapporto sui 150 anni di statistiche tra nord e sud, e quindi sulla riapertura del gap dalla metà degli anni 90 a oggi tra nord e sud, il presidente dello Svimez di ieri ha riservato in particolare agli esponenti nazionali di questo governo, senza citarli ma virgolettandoli, dicendo quello che loro sostengono, che il nord è come la Germania e sarebbe pronto a scattare come una molla, mentre il problema del sud è antropologico, più spesa pubblica che però viene rapinata, più evasione fiscale eccetera, è falso per queste e queste e queste ragioni. Anche per questo, secondo me, lo dico Milan ai nostri ascoltatori, atteggiamenti come quelli del nostro ascoltatore di Napoli non sono solo la pancia che spiega il 65%, stiamo parlando di uno dei più alti osservatori, perché il 65% vuol dire che c'è un fenomeno di fondo che si è messo in moto. Quando lo Svimez dice: caro Tremonti, non ci puoi dire che c'è la Germania di cui siamo la palla al piede, perché non è così, perché è un problema, i cali di produttività, i cali di prodotto pro capite eccetera riguardano nord e sud, il problema è che il sud ha più disoccupazione per la politica che state facendo, vuol dire che c'è un grande problema, e quindi non solo i ceti popolari ma le classi dirigenti a qualunque livello scelgono un'altra cosa. Gli speciali di Radio 24. Sono le 9:10 minuti, staremo insieme fino alle 10, caro Oscar Giannino. Non è che ti abbiamo rubato lo spazio, assolutamente, anzi, è un onore. Io ho le mani di Stavolta Milan. Metto le mani ho avanti. Finalmente un faro di saggezza che mi guida contro i miei eccessi. Che però, per una volta, ma che io lo dico agli ascoltatori di questa fascia: da tanti mesi mi avete sentito dire che con certezza il centrodestra andava a sbattere il muro. Se un cieco come Oscar Giannino vedeva questo iceberg di fronte alla rotta, è possibile mai che i Berlusconi, i Tremonti non lo vedessero? Ma io è un'ora che ti faccio questa domanda. Non più all'altezza dopo 17 anni, sono non più all'altezza, questo è il punto. Sono non più per chi è moderato e per chi vuole uno Stato più leggero e meno tasse, bisogna pensare al dopo. Dopo, e chiunque dice no perché Berlusconi è indiscutibile, l'indiscutibilità non appartiene alla politica, questa è la mia idea. L'indiscutibilità... Dopo, Giuliano Ferrara, che era con noi alle 8.30, ci ha lanciato un bel macigno sul Giuliano dopo. Ferrara ha detto che bisognerebbe, il PDL dovrebbe fare le primarie a qualunque livello, a qualunque livello. Il congresso su primaria a qualunque livello precedente entro ottobre, che significa certezza assoluta che non sarà così. Anche Giuliano Ferrara si prepara a dire, caro Silvio. No, ma tra l'altro dicendo per scegliere chi è il leader del popolo della libertà. Chi sono i leader a livello locale, perché poi il PDL non funziona anche perché, a differenza della sinistra, che ha un meccanismo tale per cui la multiculturalità della sinistra, col meccanismo primarie e alleanze, resta capace di essere distinta e distante e poi di convergere su candidati. Cioè, resta col PDL, si è illuso di mettere una mano su biacca su ex Missini, ex Laici di Forza Italia, ex Democristiani, eccetera, eccetera, col risultato di ottenere un indistinguibile melange che poi a chi vuole cose concrete non dà più risposte concrete. E la risposta è venuta dal muscolarismo manganellatore dei Sallusti, che cosa è stato sulla parte più moderata del paese, una roba che la cui reazione popolare è il rigetto. Allora, noi vogliamo salutare due ospiti con cui vogliamo continuare a parlare. Intanto saluto Piero Bassetti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Piero Bassetti, imprenditore, è stato politico, è stato il primo presidente democristiano della regione Lombardia e si è impegnato in prima persona a favore della campagna e della vittoria, poi si può dire, di Giuliano Pisapia a sindaco di Milano. Saluto anche il professor Luca Ricolfi, sociologo e editorialista della Stampa. Buongiorno, professor. Buongiorno. Io vorrei, Oscar, se me lo consente, iniziare da Piero Bassetti, perché oggi lei ha ribadito, per la verità, un concetto che già aveva detto alla vittoria di Pisapia al primo turno, insomma, o meglio al fatto che fosse andato al ballottaggio. Adesso lei ha detto: mi aspetto il 25 luglio 1943, che per chi non lo sapesse è il giorno in cui Mussolini fu disarcionato, no? Dal Consiglio del Gran Fascismo. È davvero così o... Dottor Bassetti, o... Mi pare che lei ne abbia già detto poco fa i presupposti, cioè ho l'impressione che una formazione politica che era una cozzaglia tenuta insieme in fondo dal cesarismo evocato da Berlusconi, quando il Cesare scricchiola necessariamente passa attraverso un travaglio, l'abbiamo visto il 25 luglio. Questo è solo un esempio e io credo che qualcosa di simile, mai di uguale, perché la storia non si ripete, probabilmente succederà. Presidente Bassetti, lei che in realtà, oltre che un protagonista della vita della Milano da decenni, ne è stato anche un osservatore critico in molte fasi, è quindi prezioso per chi fa il nostro mestiere, perché ci ha sempre saputo evocare la parte anche contemporaneamente più civile e talvolta più nascosta del talento della borghesia, dei ceti imprenditoriali, dei ceti finanziari. Le chiedo, ciò che è stato evidente in questi ultimi mesi, cioè che la Milano della finanza, della banca, quindi non solo quella dei ceti popolari, ma quella dei poteri finanziari, a un certo punto ha svoltato, ha detto rispetto a questo centrodestra, rispetto ai problemi aperti nella Milano di adesso e degli anni futuri, cioè per esempio le grandi aree con operazioni immobiliari da compiere perché ci sono stati problemi, pensiamo a Santa Giulia, l'Expo 2015 che dopo tanto tempo dall'assunzione dell'appuntamento ha enormi ritardi, lo sappiamo, li abbiamo descritti mille volte. Ecco, di fronte a questi problemi, che sono problemi anche di grande impatto economico-finanziario, sono attivi patrimoniali garantiti dalle banche di fronte a prospettive di sviluppo e di ritorno un po' incerte, sono progetti infrastrutturali da realizzare. La chiave per la quale i poteri economici, finanziari, insomma la Milano che conta, sarebbe detto un tempo, che è sfrangiata, non va ridotta a una sola cosa, non ne voglio fare una caricatura, però non ha avuto dubbi nel dire no, Pisapia è meglio, ci possiamo fidare molto di più dell'avvocato Pisapia. Secondo lei che ci farà, ecco, al di là della politica, di quello che ha già detto, dei limiti del centrodestra evidenti, ma perché a Milano e di fronte ai problemi economici e finanziari aperti nella città c'è stata questa scelta così netta secondo lei? Ma io non vorrei avanzare una tesi che probabilmente, come tutte le tesi innovativa è discutibile. Secondo me la ragione vera e sintetica è che quel mondo ha capito che questi ci stavano portando fuori dai circuiti di sviluppo locali di una città che è pur sempre l'ottava global city del mondo e che non erano all'altezza delle esigenze anche culturali che il mondo che si globalizza propone a tutte le classi dirigenti. Insomma, basterebbe dire una cosa, lei menzionava la finanza, pensi a come la finanza del comune ha usato i derivati. Sì. Ecco, come dei pollastri, voglio dire, questo è non solo a Milano, ecco, non solo a Milano, ma... però a Milano è più però grave Milano, in realtà Milano. Perché a Milano si dovrebbe essere un pochino più avveduti, voglio dire, a Milano è più grave, ecco. Fare il pollastro a Milano è un po' più grave, ma quello è solo un, diciamo, un piccolo esempio quasi comico. In realtà pensi per esempio alla scarsa attenzione alle grandi infrastrutture, che anche qui qualche accenno c'era stato. Milano con Fastweb era all'avanguardia, per esempio, della informatizzazione. La cablatura in fibra ottica, certo. Ecco, poi niente, pensi a Malpensa, voglio dire, il modo come è stato gestito Malpensa e il problema dell'Alitalia era di un evidente provincialismo e se vogliamo nazionalismo, tutte le cose che a una borghesia illuminata internazionale e consapevole che le sfide non sono quelle lì apparivano in tutta la loro pochezza e limitatezza. Tra l'altro io vorrei coinvolgere su questo il professor Ricolfi, perché finora, Oscar, ci siamo molto concentrati sul, diciamo, il flop del centrodestra e perché del flop, però professor Ricolfi ci può aiutare a capire anche, non so se vuole, una lettura un po' trasversale. Abbiamo detto che anche il centro-sinistra che si è affermato, pensiamo a Milano con Giuliano Pisapia, pensiamo a De Magistris, un candidato talmente anomalo da non volere neanche l'appoggio del proprio partito di base. Pensiamo anche a Cagliari, insomma, dove ha vinto anche lì un vendoliano. Ecco, che centro-sinistra invece esce dalle amministrative? Quello che legittimamente fa dire a Bersani abbiamo vinto noi, secondo lei? Ma direi che più o meno esce fuori il centro-sinistra che ahimè io avevo descritto nel mio articolo qualche giorno fa sulla Stampa, quando cercavo di dire che l'entusiasmo di Bersani era abbastanza fuori luogo, perché nel caso di una vittoria netta come quella che si è profilata del centro-sinistra in queste amministrative, il risultato, dato che questa vittoria appunto viene da candidati che sono sostenuti da Vendola, sarà la messa in discussione della leadership di Bersani e soprattutto il risultato sarà una messa in discussione dell'egemonia del PD dentro la sinistra, a mio parere, perché guardi che uno degli elementi comuni sui due versanti di queste elezioni, cioè sul versante del centrodestra e del centrosinistra, è che i due partiti guida si sono indeboliti rispetto al resto della coalizione, cioè noi abbiamo che il centro non ha vinto assolutamente, perché FLI, API e UDC sono a livelli risibili di consenso, quindi in questo senso il sistema è sempre bipolare, però i due nuclei del bipolarismo, cioè il PD e il PDL, sono allo sbando, quindi noi abbiamo un sistema che si sta frammentando. Anche, professore, anche la Lega non ha vinto, anzi tutt'altro, e quindi resta da capire dove sono andati questi voti. Sì, la Lega non ha vinto ma ha perso meno del PDL, cioè se lei fa l'analisi interna dei due schieramenti, i due partiti guida si sono indeboliti in entrambi gli schieramenti, cioè c'è una specie di frammentazione o moltiplicazione delle sigle all'interno del centrodestra e del centrosinistra, soprattutto a sinistra, questo perché non dimentichiamo anche i grillini sono guardano più a sinistra che a destra, se lei prende 100 grillini probabilmente costretti a scegliere il 20% vota a destra e l'80% vota a sinistra, quindi abbiamo un panorama a sinistra che fa abbastanza ridere, mi viene da dire, perché avere la federazione dei comunisti, sinistra ecologia e libertà, un po' di sinistra critica, i grillini, l'Italia dei valori, tutte formazioni alla sinistra del PD che stanno prendendo piede, quindi la situazione Il problema di queste elezioni è la leadership, cioè noi abbiamo una leadership a destra che è chiaramente in crisi, lo era già prima, ma sì, ha aggravato la sua crisi, e una leadership a sinistra che paradossalmente è messa in crisi dalla vittoria. Perché sono, sì, sono candidati che non sono espressione, come detto, espressione del Partito Democratico. Beh, ho appena sentito il telegiornale TG1, mi sembra, qualche minuto fa, diceva che Di Pietro, l'Italia dei Valori, ha chiesto le primarie del PD per scegliere il leader. Ma primarie del PD e primarie del PDL, no? come ci ha proposto qui Ferrara. Sì, sì. Con Oscar, forse è la testimonianza davvero che la gente ha votato le persone, che se si vuole... Se si vuole un voto amministrativo è anche un fatto positivo, o quanto ha inciso la scelta delle persone che si sono presentate, sia in positivo sia in negativo. Abbiamo detto anche magari Lettieri non era il candidato giusto per il centrodestra a Napoli. E quanto invece secondo te la gente ha fatto l'ennesimo voto però contro Berlusconi? Io in questo, per esempio, in questi anni ho constatato sempre preziose le osservazioni che sono venute dal professor Piero Bassetti su un aspetto che noi tendiamo sempre a dimenticare, perché altrimenti tendiamo a equivocare che cosa vuol dire il significato del voto alle persone rispetto ai partiti. Cioè, bisogna che un sistema per funzionare politico, quindi politico significa come è organizzato nell'offerta politica, quanto è pluripartitico, come significa come funziona la legge elettorale e dall'altra parte come funziona la forma di governo. Perché un sistema politico istituzionale possa funzionare nelle democrazie avanzate, complesse, come oramai l'Italia è in quel novero lì, sia pure arrivata ci tardi e male, bisogna che ci sia una componente in cui i partiti politici, cioè le forme attraverso cui l'associazionismo si esprime, che innervano i filoni culturali, riescano a essere sufficientemente efficienti da selezionare classi dirigenti e proporle al voto e contemporaneamente a organizzare in maniera ordinata l'offerta politica, e poi ci vuole una cifra di personalità dei leader. Questo è quello che avviene, per esempio, in il sistema tedesco, quello che viene il sistema francese, con forte personalizzazione. Però voglio dire, il gaullismo l'ha fondato De Gaulle, ma poi quando De Gaulle si ritira il gaullismo diventa un partito come gli altri, in cui le lotte tra capi per diventare Presidente della Repubblica, capo dell'esecutivo, sono quelle di tutti i grandi partiti occidentali, fino alla grande lotta che Sarkozy fa per venire a capo della scerarchia. Questo accade negli Stati Uniti con il Partito Democratico e il Partito Repubblicano. Da noi questi 17 anni di bipolarismo scazzonte sono un bipolarismo in cui i partiti finiscono, anche quelli più organizzati come il PD, questo è il senso di queste elezioni, di queste difficoltà che ci descrive Ricolfi, finiscono per non avere più quel minimo di efficienza in quanto partito, rappresentanza di idee, cultura e scrematura di gruppi dirigenti, primo. Secondo, si afferma un fattore che non è quello personale, che è ovvio nelle democrazie che funzionano occidentali, personale dei leader che lottano gli strumenti della democrazia interna ed esterna per affermare il proprio ruolo alla testa di un governo o di un partito, ma diventa una cosa che è il partito carismatico di Berlusconi esteso sugli altri modelli e che ci porta poi al plebiscitarismo anche di De Magistris a sinistra o di Vendola dall'altra parte, in cui non è più l'identità, tu non sai come la De Magistris come la pensa sull'affidamento delle gare, la pensa come Vendola o la pensa come un magistrato un che vuole che ne so, come non lo sappiamo, perché il plebiscitarismo personalista innestato sulla crisi dei partiti e l'inefficienza del modello italiano, di questo maggioritario italiano, forse la gente ha detto abbiamo visto come pensavano di queste cose le persone che lo hanno preceduto. Il problema è che Berlusconi ha funzionato perché aveva il sole in fronte o il sole in tasca, come diceva lui, per tanti anni, però senza dare a vedere che il motivo taumaturgico, come ci diceva Giuliano Ferrara, del suo successo era in realtà una grande mano di biacca su un'inefficienza assoluta del sistema politico istituzionale. Il professor Ricolfi, quando ci riconduce ai numeri delle scelte non fatte, ogni volta dovremmo dargli retta. È impietoso, perché ci fa vedere destra e sinistra. Io spero che da personalità come il professor Bassetti, che da tanti decenni ci insegna che cos'è l'economia e la finanza di una parte complessa dell'Italia che l'ha trainata per tanto tempo come Milano e la Lombardia, non perda di vista il fatto che bisogna mettere mano a nuovi modelli organizzativi e personali, tanto da una parte, perché il centrodestra è evidentemente in crisi tragica su questo, ma anche nel centro-sinistra, perché sennò andiamo al masaniellismo, che a me non piace. Intanto, dottor Bassetti, la facciamo rientrare per un attimo in campagna elettorale. Ci dica lei che cosa pensava quando in questi ultimo mesi sentiva parlare di comunisti, cosacchi, spinelli liberi, centri sociali pronti a prendere Palazzo Marino, manu militari. Insomma, che pensava lei di questa cosa? Ma che non sapevano quello che si dicevano, cioè, perché il discorso che lei ha aperto merita un approfondimento. Io personalmente ho dedicato molto tempo della mia vita proprio alle tematiche che lei illustrava, esatto, nel suo ultimo intervento, però io vorrei aggiungere al suo ragionamento una dimensione che sempre si trascura: il modo di funzionamento delle istituzioni. Qui nessuno si rende conto che tra come funziona un Parlamento e come quindi le elezioni per un Parlamento e come funzionano le elezioni per un sindaco eletto direttamente, c'è un abisso. Cioè l'eleggere il sindaco postula un modo di aggregarsi che non è quello che è postulato dall'andare a sedersi a destra, a mezza destra, a centro-sinistra, nella rotonda di un Parlamento, no? Dove il destra-sinistra è riferito a un governo che è quasi sempre prodotto di una maggioranza formatasi in Parlamento. Qui il problema è molto diverso, cioè la legge impone due candidati quando si è nella seconda fase e quindi due maggioranze sociali, no? Quindi due aggregazioni di elettori, non di componenti del Consiglio Comunale, no? Che tra l'altro con la nostra legge conta sempre meno. Quindi a questo punto il modo di aggregare la maggioranza sufficiente per conquistare una posizione che è monarchica intrinsecamente è ovviamente diverso da quello che invece ha giocato per anni. Per cui il bipartitismo in Parlamento vuol dire due coalizioni in Parlamento con le loro composizioni analizzabili, no? Mentre invece l'aggregazione di una piazza come quella che abbiamo visto l'altra sera, ancora ieri sera, non segue le logiche dei contenitori partitici. Certo, questo certo. È quello che i partiti continuano a non capire, cioè che le parti sono funzionali al governo, no? Diverso è quando le parti, come in una fase costituzionale, sono funzionali all'espressione di una sintesi di valori. Chiarissimo. Io posso fare una domanda a Ricolfi. Professor Ricolfi, lei da molti mesi, proprio sul tema che era l'asse portante dell'alleanza tra la Lega e PDL, anche nelle difficoltà che erano evidenti nell'ultimo anno, la successione di Fini e così via, quell'asse era il federalismo fiscale. Noi siamo tra i critici, lei per primo, io tra gli ultimi, ma comunque siamo tra i critici di come poi con i decreti attuativi si è venuto davvero costruendo e disegnando. Cioè, che cosa davvero quella roba porterà nelle tasche della gente del nord, delle regioni più avanzate, di chi era più virtuoso nello spendere, di qui al 2019, quando poi andrà in funzione. Lei crede che con quello che si vede uscire dalle urne, con una crisi generale, insomma, non solo del PDL, ma anche della Lega, pensiamo a Novara e così via, lei dice meno del PDL, sì. Ma il punto è che si inverte la tendenza dell'ultimo anno in cui il PDL andava male e la Lega andava bene. Adesso, diciamo, sono in due ad andare male con la Lega che va meno male del PDL. Ma di fronte a questo, lei pensa che il cemento rappresentato da quello che resta dell'attuazione del federalismo fiscale, rispetto alle difficoltà dell'agenda di governo richiamata sulla crescita mille volte, quella roba è un cemento che basta per andare avanti o per come lei vede il mondo della Lega, eccetera, eccetera, in realtà l'operatività dell'alleanza viene inevitabilmente a esserne intaccata, secondo lei, professore? Ma secondo me, se pensano questo, si suicidano, perché il federalismo non porterà assolutamente i frutti per cui è stato concepito, ma per una ragione che ormai non dipende più dalla volontà di nessuno, dipende da scelte passate. Esatto. Cioè, il federalismo entra in funzione nel 2019, se anche per caso funzionasse un po', come io spero e penso, comunque il paziente sarà morto nel 2019, quindi il problema per cui il federalismo è nato è il fisco, cioè il fatto che c'è una parte del paese che è vessata e non è più in grado di crescere perché non evade le tasse a sufficienza. Il nord e il centro non evadono abbastanza le tasse, quindi non riescono più a crescere. Non è giusto crescere evadendo le tasse, perché vuol dire stare nell'economia informale, irregolare, eccetera, eccetera. Quindi c'era un problema enorme che il federalismo doveva affrontare da 15 anni almeno, perché è più di 15 anni che si parla concretamente di federalismo. Non è stato né affrontato né risolto, Quindi se il centrodestra vuole avere qualche ragione di esistenza, di sopravvivenza, deve inventarsi qualcos'altro, deve come minimo separare il problema delle tasse dal problema del federalismo, perché gli elettori non sono stupidissimi, ma nel giro di qualche anno, diciamo 2 o 3 anni, forse anche prima, penso che si accorgeranno che il federalismo non può dare quel risultato lì, e quindi questo sarà un momento di risveglio piuttosto difficile. Secondo me Bossi se ne è reso conto, e la prospettiva verso cui andiamo è quella del 96. Cioè, di una rottura. Beh, che la Lega cambi la legge elettorale vada da sola. Mm. Cioè la Lega ha tutte le condizioni per portare a casa un numero sufficiente di amministratori locali e di parlamentari da sopravvivere, anzi crescere come partito. Quindi io tendo a pensare che la Lega andrà da sola, a meno che non facciano il grande passo, perché qui c'è una cosa che secondo me non si sta tanto... Il grande passo cioè? Beh, il grande passo di Tremonti. Questo è il punto sul quale attendevo il suo ragionamento, perché cioè, anche secondo me il fattore Giulio Tremonti per la Lega è la differenza tra un ritorno e un discorso identitario, perché loro hanno alternato nella loro storia momenti di governo e momenti in cui di ridifendevano l'identità radicando. Se oggi governano 480 comuni nel nord, quindi potrebbe essere che il discorso che il professor Ricolfi del tradizionale alternanza li porta all'8 al 96. La differenza è se fanno un'altra scelta e dicono con Giulio Tremonti noi abbiamo un leader del bene e del male, ma un garante di tante cose che nel centrodestra, nel caos, il PDL non ci sono, e noi tentiamo di diventare partito nazionale di governo con lui come leader. È un po' questa la sintesi di quello che voleva dire? No, non pensavo questo, ma potrebbe essere anche questo, certamente. No, io pensavo un'altra ipotesi che diciamo che faccio perché ho dei dati che mi fanno pensare quello che sto per dire. Cioè io faccio l'ipotesi che a un certo punto il centrodestra faccia questo ragionamento. La sconfitta che c'è stata è una sconfitta di Berlusconi, non è una sconfitta del centrodestra, nel senso che la gente non è che si è spostata a sinistra, la gente non ha più fiducia in Berlusconi e in questo centrodestra. Allora in quest'ottica, cioè se fosse vero come a me risulta che non c'è stato uno spostamento dell'elettorato a sinistra, l'unica carta che ha in mano il centrodestra è quella di impedire alla Lega di andare da sola, e come impedirlo con una leadership di Tremonti che però nasce da dentro il PDL. Secondo me non andrà così, però questo però è uno scenario possibile. È uno scenario, staremo a vedere. Intanto io vi ringrazio il professor Luca Ricolfi per essere stato con noi e Piero Bassetti. Ci dobbiamo fermare un attimo in pubblicità, poi recupereremo anche qualche ascoltatore all'800 24 00 24. Sentiremo che ricordiamo che tra poco parla il governatore della Banca d'Italia, saranno altre sberle per la bassa crescita italiana che non piaceranno al governo. Tra poco gli speciali di Radio 24. Eccoci qua, 800 24 00 24. Sono Alessandro Milan, qui c'è sempre Oscar Giannino, siamo insieme fino alle 10, caro Oscar. Stiamo commentando questo doppio ciclone sulla maggioranza, e lo facciamo ora con un ospite, il primo politico che abbiamo oggi. Abbiamo avuto analisti, commentatori, cioè Davide Boni, buongiorno, presidente del Consiglio regionale della Lombardia della Lega. E allora Boni, eccoci qua, come definire questo, se diciamo scoppola, sconfitta, cataclisma, va bene? Sono tutti i termini, perché in genere si tende a sminuire. Termine più lombardo è una bella legnata, via. Ecco, una bella legnata. Senta, che succede ora? Tutti se lo chiedono, non ci faccia quello che dice non succede niente, nervi saldi, eccetera. Ci dica qualcosa in più, anche se Bossi non ha ancora parlato. Ma credo che a livello governativo si continui, perché poi alla fine occorre che il governo dia un segnale forse diverso. Questo è quello che è mancato, quello che non siamo riusciti a dire, perché alla fine ci si è interniato, tutta la campagna elettorale è finita sulla giustizia, sulla questione dei tribunali e tutte queste cose qui. Noi abbiamo bisogno di dare dei segnali molto forti al nostro popolo, perché è quello che ci chiede, per cui si parla di fisco, si deve parlare di lavoro, queste sono le cose vere, perché sennò il rischio e continuare a correre dietro a qualcosa che non c'è. No, perché i giornali, anche oggi La Stampa per esempio, diceva che Bossi avrebbe già pronte le valigie, ne faccio anche cenno a Oscar Giannino, solo che le valigie sono pronte, manca di capire il come, dove, quando e perché. Anche se ieri Maroni non è parlato di valigie. No, però Maroni già ha detto adesso è il caso di rilanciare l'economia, la questione, no? Caro Tremonti. Beh, è naturale che questo qui è il passaggio, d'altronde siamo la forza più vicina in questo momento al Presidente del Consiglio, al di là del PDL e tutto il resto, però mi sembra che noi abbiamo portato la croce, abbiamo cantato sempre durante questo ultimo periodo. In questo momento, al di là del federalismo, che è una cosa che ormai è portata a casa, occorre calarsi sulle realtà vere, su quello che la gente ha bisogno, perché se poi le aziende chiudono, i pensionati si lamentano giustamente, abbiamo bisogno di rilanciare sulle cose reali, se no il rischio è quello di andare completamente fuori in giro. Perché Boni, posso fare una domanda fuori dai denti? Guardi, ieri, prendo l'episodio di ieri perché è singolare e contemporaneamente esprime bene l'equivoco che secondo me non vi aiuta oramai di fronte all'elettorato classico produttivo del centro-nord. Ieri Assemblea Industriale di Brescia, sto parlando di una delle più grandi territoriali di Confindustria, Marcegaglia, Giulio Tremonti, c'è addirittura un qui pro quo su chi deve parlare alla fine, ci sono due programmi stampati, che dà l'idea di come siamo ridotti, devo dire la verità. Alla fine Giulio Tremonti è convinto di parlare per ultimo, Emma Marcegaglia è convinto di parlare per ultimo, il presidente dà la parola a Emma Marcegaglia, il presidente dell'Unione Industriale di Brescia, Emma Marcegaglia parla, il presidente dell'Unione Industriale di Brescia a quel punto ringrazia tutti, accomiata, dice a nome del ministro che è seduto in prima fila, il ministro non può parlare perché deve andare via, bu fa la dalla sala, Unione Industriale, non stiamo parlando certo di un comizio di Soviet, bu devi parlare prima. Allora a quel punto Tremonti va lì al palco e dice no, beh, io non me ne devo andare, io parlo. Nel frattempo la sala si svuota a metà, gli industriali rimangono increduli, il presidente di Confindustria di Brescia dice ma qua siamo alla follia, ma questo è matto. Dopodiché Tremonti parla e spiega come qualmente in questi anni chi continua a criticare dicendo ci voleva più crescita sbaglia, perché la tenuta dei saldi pubblici è stata la tenuta del bilancio dello Stato e più di questo non si può fare, anzi per l'azzeramento del deficit previsto nel 2014 dalla decisione economico-finanziaria presentata un mese fa bisognerà aggirare ulteriormente le robe, quindi dice qui di risorse io non posso mettere risorse per la crescita, non ci sono, e quindi non posso neanche fare la riforma fiscale se non a costo zero, anzi possibilmente incassando di più. Giulio Tremonti queste cose le dice e le ripete sempre, a costo di essere diventato antipatico e anche di rischiare ormai incidenti con gli industriali, che secondo me sono degli autogol, se posso dirla dal punto di vista elettorale. Poi le chiedo, da questo punto di vista, come si fa a prendere sul serio da una parte quello che dice Giulio Tremonti, che è la verità dal punto di vista dei saldi contabili, e dall'altra però dire però bisogna che ci inventiamo qualche cosa che arrivi all'elettorato del nord e di tutta Italia per la crescita e per le tasse? Perché delle due l'una, insomma, lui dice io non ce n'ho, come faccio? Ma bisogna fare una scelta politica. Adesso io capisco che i conti devono stare a bilancio, però d'altra parte il rischio più grande è che le realtà produttive poi spariscano dal nostro territorio. Insomma, noi, la regione Lombardia in modo particolare, produce il 26% del prodotto interno lordo, o noi diamo qualche segnale o il rischio che noi arriviamo come quel titolo di quel vecchio libro che era Nudi alla meta. Nudi alla meta, esatto. Questo è il punto. Da una parte bisognerà fare un sacrificio più grosso. Capisco gli industriali, ma d'altronde se non gira l'economia, esatto, non gira tutto il resto, chi paga le tasse se non si produce? Esatto. Noi oggi stiamo spendendo un sacco di soldi per azioni passive rispetto al problema della grande crisi economica, intervenendo con gli ammortizzatori sociali, però quelli non producono tasse che devono essere rimesse all'interno del sistema. E lì siamo arrivati, l'INPS ha preso 19 miliardi di euro l'anno scorso, e anch'io, questa è la base della mia riflessione critica su Giulio Tremonti e i troppi anni prima di fare la riforma fiscale. Si può davvero essere rigorosi e virtuosi quanto si vuole per aumentare gli incassi con procedure che sono tra l'altro del tutto illiberali e ingiuste e che portano la gente oramai a protestare nelle piazze, ripeto, sfilate come quella di Treviso, sfilate come quella di Cagliari, però una volta che si è fatto questo ma non si cresce, si uccide il cavallo, si potrà essere stati rigorosi e virtuosi, ma alla fine A, la gente ti volta le spalle, B, soprattutto senza crescita non ce n'è più per nessuno. Questa è la mia idea di fondo. Io mi auguro che nel centrodestra qualcuno, la Lega, non la Lega, qualcuno del centrodestra lo capisca, e non credo che questo debba essere preso come un attacco personale a Giulio Tremonti o cose. O il centrodestra è capace di articolare in maniera credibile ciò che lo ha reso forte con questa parte dell'elettorato del nord, oppure ha perso la sua missione identitaria. Questo è il punto. Io credo che nella Lega su questo dovreste ragionare meglio che nel PDL, perché è il vostro pane quotidiano, per così dire. No, no, ma Giannino, io sono d'accordo. Non sempre si può fare i primi della classe. Certo. Questo è uno dei punti, perché il rischio è quello di prendere il diploma alla fine dell'anno, ma poi non hai più nulla sul quale scrivere, perché questo è il punto fondamentale. Le nostre aziende, soprattutto le piccole e medie aziende, io girando in campagna elettorale, il messaggio di dolore che ci mandano è questo: chiudono e si perde il patrimonio. Poi i conti saranno alla pari, però intanto le aziende sono dissipate, il patrimonio non c'è più, cioè non c'è nulla, non riesci neanche, non sei più neanche concorrenziale rispetto ai mercati esteri, perché poi noi difendiamo il made in Italy, ma il problema è che la Rinascente se la comprano i thailandesi. Poi. Bravissimo, questo qui secondo me è il passaggio sul quale bisogna ragionare. Allora, intanto noi la ringraziamo, Davide Boni, presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Dobbiamo dare le informazioni sul traffico. Poi Roberto da Bologna, Angelo da Venezia, siamo da voi, un paio di ascoltatori. Gli speciali di Radio 24. Allora, Oscar, prima del nostro ultimo ospite, sentiamo un paio di ascoltatori, cominciando da Angelo, da Venezia. Buongiorno. Salve, buongiorno Milan. Dici. Tre cose brevi, spero di dirvele tutte. Stamattina ho risentito Ferrara Radio 24. Sì. Ferrara poi parlava del cavaliere che in ottobre dovrebbe fare degli stati generali. Sa che cosa sentivo? Proprio a pelle, no? Qualcosa che si perpetua, cioè delle statue di sale che ritornano, no? Invitava a fare le primarie, che sarebbe una cosa, le primarie, clamorosa. Sì, poi parlava anche di fare gli stati generali sull'economia, eccetera, eccetera. Ecco, qua mi viene subito la domanda, Giannino. Ma Giannino, sì, con tutta l'ammirazione che ho per lei, ma secondo lei, da 1 a 10, quanto sviluppo economico, quanto gli è interessato al nostro cavaliere, ai suoi ministri, lo sviluppo economico, dello sviluppo economico da 1 a 10, da 1 a 10. È chiarissima la sua domanda, Angelo, se no se svisceriamo i tre punti con questo ritmo andiamo allo speciale di domani. Da 1 a 10, Oscar, rispondi? Nei fatti devo dire 2 su 10. 2? Ah, no, bassissimo, cioè la mia opinione, io boccio in toto quello che io salvo così, il rigore di Tremonti, e critico che quel rigore non sia declinato insieme a una definizione della spesa e delle tasse, perché una carezza e una bastonata. No, io non però, do una carezza, a io do solo una bastonata, perché no, a Tremonti, ripeto, riconosco il rigore, ma disconosco che quel rigore debba essere praticato come lo fa lui, tradendo in maniera irrefutabile l'impegno assunto e ribadito in ogni elezione per mantenere quel rigore a più basso perimetro, concentrando il welfare dove non ce l'abbiamo e dove serve, e abbassando le tasse, che è la grande leva per far crescere l'economia. Oscar Giannino questo farebbe. Io non l'ho promesso ai miei elettori, loro lo promettono da 17 anni. E con tutto che io riconosco a Giulio Tremonti il freno e il rigore, se il suo rigore diventa l'impossibilità dei principi su cui ha preso i voti, deve andare a casa! Sembri come tutta la campagna elettorale, quelli che c'è una Pisapia è un bravo signore. Dici l'ascoltatore mi ha chiesto un giudizio. L'ascoltatore mi ha chiesto un giudizio, come si vede, è insufficiente. Ma riconosci il rigore? Questo lo dici tu, però comunque l'effetto è, rispetto al motivo per cui hanno preso i voti e alla crescita aggiuntiva di cui c'è bisogno del paese, secondo me è negativo. Ti dico questo, faceva l'effetto di chi in 15 giorni diceva Pisapia. Io da mesi dico ai miei ascoltatori, spero che l'offerta politica del centrodestra, ma c'è ragione dopo questa batosta, si modifichi, perché qualcuno nel centro, nel nord e nel sud, di moderato, che vuole meno tasse, meno Stato, dica ce lo facciamo noi un bel partito diverso. Sentiamo Roberto da Bologna, buongiorno. Buongiorno, no, ma siete così bravi che in buona parte no, avete risposto dica. Alla mia domanda, perché in realtà a Giannino dà molto fastidio il rigore. Io devo dire... me dà fastidio il rigore? No, ho capito, mi lasci finire. Io devo dire che da elettore, telefono da Bologna, però sono di Napoli, sì. Ho sentito nella mia città d'origine chi ha votato De Magistris è molto più disgustato dalle vicende delle leggi ad personam di Berlusconi, certo, che non della politica economica di Tremonti, perché è chiaro, è verissimo quello che dice Giannino, il paese può morire di rigore. Allora, però lei fa bene a richiamarci al fenomeno di fondo, il berlusconismo è in crisi per quello che dice lei, essenzialmente, questo è vero. Io direi che la gente è molto infastidita da questo. I sondaggi le hanno assolutamente ragione, il fatto vero della crisi del berlusconismo è questo, sì. Vorrei dire un'ultima cosa, poi gli do la parola perché so che ho poco tempo, riguardo alle tasse, io sono un lavoratore dipendente e sento che ci vogliono meno tasse sulle aziende, per carità, va benissimo. Non vi sembra però che il lavoro dipendente di tasse ne abbia pagate molte e un modo di riattivare l'economia in questo paese sia abbassare il prelievo fiscale sulle buste dei dipendenti e darci la possibilità di tornare a consumi dignitosi? Non siamo caro con... ascoltatore, Confindustria dice da 3 anni insieme la riforma fiscale deve abbassare il prelievo sia sui lavoratori dipendenti che sulle imprese. Qui non ci vuole, bisogna abolire l'IRA per capirci e bisogna abbassare le aliquote dei lavoratori dipendenti, quindi le aliquote basse dei lavoratori dipendenti. Questo, su questo nessuno più non può essere d'accordo, su questi due punti insieme. Allora, Claudio Velardi, buongiorno. Buongiorno. Claudio Velardi ha seguito la campagna di Gianni Lettieri. Senta, in apertura di nostro speciale con Oscar Giannino c'era Giuliano Ferrara che ha detto, testuale, sarà un'opinione forte ma il 65% che ha votato De Magistris li prenderei tutti personalmente a calci nel sedere. Velardi, lei che dice? Sarei quasi più motivato di Ferrara, sì, per farla così, dato che ho fatto la campagna elettorale contro, ma non sono d'accordo. Il popolo ha... come dire, ha sempre ragione o quantomeno ha sempre le sue ragioni e vanno comprese queste ragioni. Io vorrei vedere, vorrei sfidare appunto Giuliano a vivere per 15 anni a Napoli in una situazione di totale inarrestabile degrado e a quel punto non rivolgersi a colui che è apparso come il più distante, il più lontano diciamo dalla classe dirigente precedente. Così è apparso De Magistris, onore a lui, è stato bravo, capace e per questo i napoletani si sono rivolti così massicciamente. Cioè, ci sta dentro. Ma posso fare, hanno trovato, posso fare una domanda a Velardi riguardo al passato napoletano e a queste ipotesi che ogni tanto ci sono a Napoli di qualcuno che dall'esterno o da sotto viene ed è un riorganizzatore. Dovessimo fare una cifra semplificatoria, ai napoletani che lo hanno votato e l'hanno scelto per questo, De Magistris appare un Gioacchino Murà che arriva da fuori, un po' singolare, a cavallo e coi pennacchi, ma che però si può sperare che cambi tutto, oppure Don Libor Romano, la vecchia anima. No, Liborio Romano, la seconda che hai detto. Don Liborio Romano. Perché lui utilizza sapientemente, diciamo, tutte quante le pipilla, diciamo, tutte quelle quei sentimenti, quel sentire molto diffuso a Napoli, che è piuttosto facile appunto da sollevare in una situazione di degrado quale quella che vive la città. Non c'è, come dire, nessuna imposizione dall'alto di un nuovo ordine. Questo assolutamente non c'è e non penso ci sarà. Detto questo, però, appunto, comprensione massima e massimo rispetto per il popolo. Dice, ha vinto, bisognerà vedere ora, mi sembra di capire. Sì, cioè, bisognerà vedere ora, naturalmente. Adesso, però, non bisogna fare un errore. Questo da parte di nessuno, né gli oppositori, i critici. Non devono dire a De Magistris, beh ora devi fare in 3 mesi il 70% di disoccupazione, come ha promesso. Anche perché a Napoli oppure... neanche San Gennaro ci riuscirebbe. No, allora ci vuole calma, tranquillità, io penso... Velardi, io azzardo un'ipotesi, vediamo se è troppo folle. La mia impressione è che De Magistris potrebbe diventare un leader, una stella polare, per il consenso che ha avuto per il centro-sinistra a livello nazionale nel futuro. Tanto da mettere in discussione il ruolo di Vendola e così via, perché lui è capace di pescare più roba dall'altra parte dello stesso Sonichi, che su questo è bravo ma fino a un certo punto. Questo è troppo crederlo? No, lui è più trasversale di Vendola, però naturalmente un minimo di prova di governo lo dovrà fare. In fondo Vendola va a fare i comizi a Milano, però poi in Puglia governa con limiti, errori, esatto. Però insomma anche facendo delle scelte non sempre semplici. Esatto. De Magistris comunque qualche piccola prova di governo dovrà darla, se poi vorrà darsi questo ruolo. Non è che poi se ne può scappare tra sei mesi dicendo scusate tanto, vado a fare il leader nazionale. Sì. Staremo a vedere. Intanto grazie Claudio Velardi, qui ci dobbiamo fermare. Oscar, dovremmo ringraziare tante persone. Oggi voglio ringraziare personalmente le nostre splendide ragazze del centralino. Assolutamente, perché, insomma, sì, sempre, perché sono quelle grazie alle quali capitanate da rosa, si può dire? Sì, si può e si deve dire. E poi tutti i tecnici della redazione, eccetera. Te, Oscar, io ringrazio te perché hai messo saggezza in questa mia pila, eccetera, perché altrimenti io avrei passato un'ora a sbraitare dicendo la destra perde perché è ladra di futuro. Questa è la mia idea. Io voglio meno Stato. Molti ascoltatori dicono: Giannino, vivi in un sogno, il mi tuo liberismo oramai è finito. Invece non è c'è così. Giulio mi Tremonti picchiano. Che vuole spiegarti due cose sul rigore. Ma io con lui ci parlo, mi dice regolarmente che infatti sbaglio. Temo che forse dovrebbero interrogarsi loro su quello che gli elettori dimostrano a loro di quanto stanno sbagliando. Ma se un politico sbaglia ci sono le urne poi. Esatto. No? Allora, il problema è che se affossa l'idea del meno Stato, meno che fa ancora più danni, questo è il punto. Allora grazie Oscar Giannino, tu domani sarai alle 9, io domani sarò alle 7:20 e che dire, grazie a tutti, ci vediamo, lo speciale finisce qui. Arrivederci. Perfetto. A domani.